su occhi scavati cerca i sentieri che portano in là. Un vecchio nobile aspetta sognando le chiavi delle porte di Orlova. Alzati e ridi nei luoghi sottili. Senti i tuoi passi, non vedi gli specchi. Pioggia ristagna su boschi bagnati, annusa il sentiero. Corre i porti, cade la maschera. Lascia che indossino i paraocchi, tra terra e cielo è sottile il confine, più largo il tempo che serve a capire. Danza vivo nei luoghi sottili.